Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e a tutti buona giornata. Esattamente una settimana fa ci siamo lasciati con una promessa, quella di tornare a parlare del calcolo e del pagamento dell'IMU, l'imposta municipale che sta impegnando e preoccupando tante famiglie italiane che, calcolatrice alla mano, stanno ancora verificando l'ammontare dell'ultima rata da saldare entro il 17 dicembre. Secondo i dati diffusi proprio negli ultimi giorni dal Sole 24 Ore, il saldo IMU costerà agli italiani 5 miliardi in più rispetto a quanto avrebbero dovuto versare complessivamente se avessero potuto applicare le aliquote nazionali utilizzate per l'acconto. Invece a fare la differenza sono le decisioni dei comuni, che potevano aumentare la forbice a loro discrezione, con i rincari più pesanti che riguardano le città del centro e del sud, anche se la metà del gettito, per la verità, arriverà dal nord Italia. Torniamo a parlarne oggi a Salva Danaio, appunto proprio in virtù di una promessa fatta esattamente una settimana fa, rispondendo ai vostri dubbi sulle modalità di calcolo e anche su quelle di pagamento. Da ieri infatti è possibile pagare anche con il bollettino postale, oltre che con il modello F24. Invece è slittato ufficialmente al 4 febbraio del prossimo anno il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, che, lo ricordiamo perché questo aspetto ha generato un po' di confusione, interessa una platea piuttosto circoscritta di proprietari. Allora, di nuovo con noi quest'oggi, come ci avevano appunto promesso una settimana fa, Cristiano Dell'Osti, il Sole 24 Ore. Buongiorno Cristiano. Buongiorno. Oggi non sei dalla concorrenza, da Mirta Merlino, all'aria che tira, ti vediamo qua sui nostri monitor quando ci tradisci. Ed è con noi di nuovo anche il notaio Enrico Maria Sironi del Consiglio Notarile di Milano. Notaio, buongiorno e bentornato anche lei. Grazie, buongiorno a voi. 800 24 00 24 è il numero verde che, come il solito quando facciamo le puntate dedicate alla casa, è gettonatissimo, ma potete appunto utilizzare questo numero per intervenire in diretta. Avete anche tutte le altre modalità, sono tante: 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ci potete scrivere delle mail, ce ne sono arrivate tante negli ultimi giorni. Tra l'altro, lo anticipo, questi ascoltatori che ci hanno mandato dei casi un po' più articolati, Marco Lombardo li sta cercando al telefono per dare loro l'opportunità di raccontarci le loro situazioni direttamente, piuttosto che farmi leggere in diretta delle mail piuttosto lunghe. Potete anche scriverci su Facebook, anche qui state utilizzando tanto questo canale. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24 e poi, se volete, potete anche twittare i temi della nostra trasmissione @salvadanaio24. Tra l'altro, Cristiano, magari diciamolo subito, da oggi sul Sole 24 Ore parte SOS IMU, una rubrica quotidiana per risolvere i dubbi e calcolare appunto il saldo da versare entro il 17 dicembre. E così è una sorta di conto alla rovescia che ci avvicina alla scadenza del 17 di dicembre, e tutti i giorni con gli esperti, con i giornalisti del Sole 24 Ore ci saranno approfondimenti che spiegano appunto come calcolare correttamente, ma anche che cercano di dare una risposta agli altri problemi che ancora non hanno una soluzione. Ne dico uno, per esempio, che però non è banale: come si fa se a giugno si scopre di aver pagato più di quanto si doveva? Al momento non c'è una procedura ancora definita per i rimborsi dallo Stato. Quindi una risposta già non la possiamo dare, ma attendiamo ancora qualche chiarimento. Sì, da la speranza parte è che arrivi un'indicazione prima del 17, insomma, infatti, per cercare di avere anche un punto fermo. Piuttosto che dopo, perché poi quando lo Stato, se dovesse mai restituirci anche un piccolo importo, prima che lo vediamo, passeranno ere glaciali, direi. Allora, adesso però dobbiamo raccontare anche cosa succede in borsa. La borsa è positiva oggi, Milano continua a festeggiare, a brindare a questo spread che sta scendendo sempre di più. Il differenziale fra Italia e Germania ci costa per fortuna sempre meno. Anche stamattina stiamo viaggiando al di sotto dei 300 punti base, siamo arrivati a 297, e appunto c'è questo auspicio del Premier Monti che dice: io lo vorrei vedere a 287, chissà perché ha indicato questa cifra non rotonda. Comunque a marzo scorso siamo arrivati anche a 280, se scendessimo ancora di più saremmo tutti contenti, tutti meno soldi che per interessi appunto il nostro Stato dovrebbe pagare sul suo debito. In ogni caso, Questo livello del differenziale stamattina sta spingendo sensibilmente tutte le banche a Piazza Affari e addirittura Monte dei Paschi segna più 7,70%, rialzi che non vedeva dalla preistoria praticamente, visto che stamattina stiamo utilizzando queste immagini. Monte dei Paschi ha avuto molte difficoltà, titolo tra i più penalizzati di Piazza Affari, ha fatto richiesta appunto dei Tremonti Bond e anche di altre forme appunto di aiuti di Stato e di conseguenza questo titolo per questi motivi è stato molto penalizzato. Oggi invece riconquista la fiducia del mercato e sta appunto guadagnando parecchio terreno. Milano segna più un 11% complessivamente sul FTSE MIB, gli altri titoli delle banche in forte progresso: UbiBanca più 3,48%, la Popolare di Milano più 3, Mediobanca più 2,71%, Banco Popolare più 2,64%, Unicredit più 2,57%, Popolare dell'Emilia Romagna più 2,39%, Intesa più 2%. Abbiamo in calo di mezzo punto invece Tenaris, Parmalat ed STM. Banche centrali molto attive, nei prossimi giorni si riuniscono praticamente tutte, ma già stanotte un segnale piuttosto interessante lo ha dato la Banca Centrale d'Australia, che ha tagliato i tassi di 25 punti base, li ha portati al 3%. Voi direte cosa c'è di strano in un momento in cui tutte le banche continuano a mettere liquidità sul sistema. La cosa originale è che questi livelli della Banca Centrale d'Australia sono i minimi dal 1960. Oggi c'è poi anche la decisione della Banca del Canada. Direi che la borsa la possiamo lasciare, andiamo subito al tema di oggi: saldo IMU sempre più vicino. Ecco, lo sapevo, ecco, io pagardevo, lo farei. Il conto alla rovescia è ormai partito e si concluderà la prossima settimana. Non si tratta dell'attesa della fine del mondo che i Maya avrebbero previsto per il 21 dicembre, ma di una scadenza ancora più ravvicinata e che, mettendo da parte scherzi e superstizioni, preoccupa realmente le famiglie italiane. Va infatti saldato entro lunedì 17 il pagamento dell'IMU, e gli italiani devono fare i conti con l'aumento delle aliquote previsto dal proprio comune di residenza e calcolare così l'importo effettivo. Il 31,2% dei sindaci ha allargato la forbice sulla prima casa e il 62,6% quella sulla seconda. Il risultato? 23 miliardi in tutto di gettito rispetto ai 18 calcolati, fermandosi alle sole aliquote base, fissate su scala nazionale. 4 per mille sulla prima casa e 7,6 per mille sugli altri immobili. Secondo un'analisi della UIL basata sulle delibere dei comuni pubblicate fino al 28 novembre, gli italiani pagheranno in media 136 euro per la prima casa, con punte di 470 euro a Roma. Per la seconda casa, la rata media sarà di 372 euro, con punte che arrivano anche a 1200 euro nelle grandi città. L'aliquota media sulla prima casa si attesta al 4,36 per mille, in aumento del 5,6% rispetto a quella di partenza, mentre per le seconde case l'aliquota media è dell'8,78 per mille, con un balzo del 15,5% rispetto all'aliquota base. L'IMU costerà in media 278 euro a famiglia per le prime case e 745 euro per le seconde. E nel frattempo, dal 1 dicembre, si è aperto un secondo canale per i pagamenti del saldo. In alternativa al modello F24, i contribuenti potranno usare anche un bollettino postale ad hoc, approvato con un decreto ministeriale del 23 novembre scorso, che prevede anche la possibilità di versare l'imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane. Come cavolo fai a calcolare l'IMU? Devo dire che se lo stanno chiedendo in molti ascoltatori. Francesco ci scrive su Facebook: arriva la scadenza della seconda rata, sarà possibile che devo andare dal commercialista e pagarlo per fare il calcolo dell'imposta? Ma è possibile che il mio comune non riesca a mandare un bollettino con l'importo della tassa? E magari, Cristiano, potessimo avere questo servizio. In realtà, forse per chi ha magari solamente una prima casa, l'abitazione principale, può anche evitare di andare dal commercialista. Ci sono molti calcolatori che abbiamo indicato anche nella settimana precedente. Possiamo ricordare magari quello che mette a disposizione il Sole 24 Ore, Cristiano, così aiutiamo sì, Francesco. Certo, l'indirizzo è il sole24ore.com. slash, cioè barra inclinata, calcolo IMU. Calcolo IMU. Secondo te sarà possibile che molti contribuenti riescano a compilare il bollettino per fare il saldo con errori? Ci sono dei margini molto alti? Oppure diciamo potrebbe tutto andare via liscio? Diciamo che le possibilità di errore per quanto riguarda il modello F24 sono abbastanza alte. Parliamo di errori formali magari tante volte che però possono comunque poi magari bloccare l'accettazione del modello da parte del software della banca, e quindi possono creare se non altro il problema di doverlo riscrivere o di doverlo Comunque ricompilare. Se già c'è un alert, c'è qualcuno che ci dice guarda lo stai compilando in maniera errata, già questo comunque non è un versamento errato che potrebbe essere diciamo più che da un punto di vista, allora se parliamo di errori formali c'è la casella rateazione che potrebbe creare qualche problema, c'è il codice EL oppure R nel modello semplificato che potrebbe creare qualche altro problema. Se invece parliamo di errori sostanziali, cioè di quantificazione del tributo, allora qui il problema più grande senza dubbio è la divisione tra la quota comunale e la quota statale dell'IMU su tutti quei fabbricati diversi dall'abitazione principale, perché qui non basta più fare come si faceva a giugno, cioè dividere a metà il tributo, ma bisogna tenere presente che la quota dello Stato è fissa, quindi è identica a quella che abbiamo pagato a giugno, in buona sostanza, mentre la quota da dare al comune dipende dall'aliquota che ha stabilito il comune, e bisogna in qualche modo fare appunto questa sottrazione che si chiama conguaglio. Allora, ecco, specifichiamo che questa circostanza riguarda solo, anche in questo caso, una certa platea di contribuenti, non quelli che devono versare l'IMU solo per l'abitazione principale, ma tutti quelli che invece hanno un fabbricato di natura diversa. Esatto, hanno un fabbricato diverso, con una avvertenza importante, che questo fabbricato diverso potrebbe essere ad esempio anche il secondo box auto, perché siccome le pertinenze dell'abitazione principale sono al massimo una per tipo, se io ho un alloggio e due box auto, di fatto mi trovo a pagare come abitazione principale la casa e il primo box, e come categoria altro fabbricato il secondo box, e quindi qui sul secondo box, anche se magari parliamo di pochi spiccioli perché la rendita catastale è molto bassa e quindi anche l'IMU è bassa, devo dividere tra le due quote. Certo, tra l'altro questo è un aspetto che viene toccato proprio nella prima parte, nella prima uscita di SOS IMU, nell'articolo di questa mattina di un altro nostro esperto che sfruttiamo spesso per questi argomenti, che è Luciano De Vico. Conti doppi per il saldo dell'IMU, la presenza di due creditori fiscali, Stato e Comune, costringe a duplicare con attenzione un calcolo già di per sé complicato. Notaio Sironi, glielo dicono anche i suoi clienti, che chi ha appunto fabbricati diversi rispetto all'abitazione principale si trova a fronteggiare questa ulteriore complicazione quest'anno, oltre ad un calcolo che naturalmente si è reso difficile se il comune dove si abita magari ha deliberato le aliquote definitive solo di recente. Certamente, il problema è proprio questo per molti. Aggiungiamo un'ulteriore preoccupazione, se vogliamo. Di per sé la circolare ministeriale prevede che quando nella scheda catastale che individua l'abitazione sia compresa anche una cantina, ad esempio, la seconda cantina che eventualmente uno abbia non è pertinenziale. E quindi ricaschiamo in questo problema. Ecco, allora ha ragione l'ascoltatore. Insomma, veramente uno bisogna che abbia solamente le due stanzette, la cucina e la camera da letto, se qualora si fosse azzardato ad avere la proprietà di qualcosa in più per quello che riguarda appunto il saldo IMU, le cose sono un po' complicate. Quindi è bene che le si prendano anche per tempo, non ci riduciamo magari al prossimo fine settimana a fare i conteggi, Cristiano, a fare il versamento solo l'ultimo giorno. Tra l'altro, come mai è proprio di questi giorni la novità che è possibile fare il pagamento anche con il bollettino postale? Questo lo prevedeva la legge. Sono accorti un po' tardi. No, la legge lo prevedeva, no, in questo caso i tempi sono in qualche modo predeterminati. Potremmo discutere che sia tardi, ma era già previsto che dal primo di dicembre, quindi di fatto ieri, che era lunedì 3, è il primo giorno lavorativo in cui questa possibilità è diventata operativa, si potesse pagare anche con il bollettino postale. Tra l'altro bisogna dire una cosa, che col bollettino postale alcune delle possibilità di errore che ci sono nel modello F24 vengono meno. Quindi per chi sceglie il fai da te, il bollettino postale è una via decisamente più semplice, perché per esempio, ne dico una, non bisogna indicare i codici tributo, basta scrivere nella casella giusta se stiamo pagando per un'abitazione principale o per una seconda casa, e questo già... Faccio subito una domanda con conflitto di interesse: io ho pagato con l'F24 l'acconto di giugno, adesso posso saldare con il bollettino postale? Oppure non ci sono limitazioni, cioè chi ha fatto l'F24 prima potrà fare adesso il bollettino. Bene, Benissimo, andiamo subito ai casi concreti dei nostri ascoltatori, perché naturalmente la trasmissione la facciamo per loro, per cui direi che più che parlare di questioni di carattere generale andiamo nel dettaglio e magari molti nei casi singoli si possono anche ritrovare. Un ascoltatore, Giuseppe, ci scrive tantissimo e ci aveva anche scritto l'altra volta, non abbiamo potuto accontentarlo, abbiamo ripreso oggi la sua domanda. Sono diventato residente nel marzo di quest'anno. Per l'acconto IMU di giugno, notaio Sironi, vengo da lei con questa domanda. Ho pagato 4 mesi come prima casa, quindi marzo, aprile, maggio, giugno. 2 mesi come altro fabbricato, gennaio, febbraio. Ora volevo capire come devo calcolare il saldo. Allora, il saldo, Giuseppe, lo deve calcolare secondo il medesimo criterio che ha seguito per l'acconto. E quindi ricalcola per l'intero anno 2 mesi come seconda abitazione e a questo punto 10 mesi come prima abitazione, detrae da queste due cifre che ha determinato l'acconto versato a giugno e quindi verserà il saldo della prima casa interamente al comune, il saldo della periodo dei 2 mesi di seconda casa, verserà una quota allo Stato che dovrebbe coincidere, come si diceva prima, con quella già versata a giugno, e la quota del comune. Cristiano, ritorniamo a formulare, visto che ci eravamo tanto divertiti, la formula malefica che ci dà l'opportunità di determinare l'imposta da versare. Da cosa partiamo? Ripeschiamo la rendita catastale della nostra casa e poi da lì quali moltiplicazioni dobbiamo fare? Allora, troviamo la rendita catastale, la si trova sul rogito, sulle visure o comunque in alternativa la si può recuperare anche con una visura fatta direttamente, insomma sul momento, dal sito dell'Agenzia del Territorio. Dopodiché la si moltiplica per 1,05, che questa è la vecchia rivalutazione del 5%, quella che si faceva anche con l'ICI e che si fa in sostanza dal 97. Poi si moltiplica per il coefficiente previsto per il tipo di fabbricato. Allora, se stiamo parlando di una casa o di una pertinenza, quindi di un box, di una cantina, il coefficiente è 160. Fatta questa moltiplicazione si trova il valore catastale, che è sostanzialmente la base su cui andare ad applicare l'aliquota. Quindi se il comune ha stabilito, mettiamo un'aliquota dello 0,9%, perché stiamo parlando, che so, di una seconda casa, allora semplicemente io prenderò il mio valore catastale, lo divido per 100 e lo moltiplico per 0,9. Una seconda casa che ha come base lo 0,76, esatto. Se non ricordo male, in questo caso, un esempio che tu immaginiamo hai fatto, immaginiamo che il comune l'abbia alzato, esatto. E allora a questo punto, applicando lo 0,9, io avrò individuato l'imposta dovuta per tutto l'anno. Una volta individuata l'imposta dovuta per tutto l'anno, vado a sottrarre quello che avevo già pagato in acconto e ciò che mi resta è sostanzialmente il conguaglio da versare, certo, come saldo. Notaio Sironi, ricordando naturalmente che ci sono le detrazioni di 200 euro per una detrazione appunto fissa stabilita dal governo, in più bisogna considerare anche la, speriamo, possibile esistenza di figli all'interno del nucleo familiare che ci consentono di abbattere ulteriormente il tributo. Esatto, la presenza di figli si può abbattere ulteriormente di 50 euro per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età e con un massimo di 8 figli, che oggi direi che è una situazione abbastanza limitata. Ecco, rara, infatti, non ce lo possiamo più permettere di fare tutti questi bambini. Cristiano, speriamo ancora nei giovani come te, naturalmente. Siete preoccupati dall'arrivo dell'IMU? Il calcolo è davvero semplice. Basta recarsi al catasto, cercare Ernesto e dirgli la parola d'ordine che è o Mordo Tua Nuora o Arun Autodromo. Lui vi darà i metri quadri calpestabili di casa vostra, che dovete dividere per pi greco e sommare al valore della vostra glicemia, calcolata dopo il quarto mojito a stomaco vuoto. Segnatevi il numero ottenuto e comunicatelo via telefono al sensitivo Mariano, che vi darà la cifra esatta in euro di quanto dovete pagare. Io sono pronto ad un confronto. Cristiano, questo era il trio Medusa, che ci ha dato tutte le indicazioni molto puntuali e precise su come dobbiamo fare il calcolo del saldo IMU. In realtà il procedimento non è così complesso, è un tantino complicato per la verità, è certo che se ci facessimo un goccetto prima di metterci a fare i calcoli, magari come indicavano loro, aiuterebbe. Detto questo, ti leggo questa mail di Tobia, che ci scrive su Facebook. IMU, variazione rendita catastale a novembre. Mi è arrivato il 12 novembre un avviso di accertamento che mi comunica che la rendita catastale di un immobile è passata da 300 euro a 700 per effetto di una ridistribuzione degli spazi interni. Tra l'altro una ristrutturazione che risale, ci racconta lui, nel 1996 e anche lavori fatti e comunicati. Avevo pagato l'acconto in giugno sulla base della vecchia rendita catastale, ora devo pagare il saldo. Quindi che cosa deve fare? Deve aggiornare adesso ed eventualmente mettersi a posto anche con la rata, può farlo con la rata di acconto? Ma allora si tratta di capire il tipo di atto che gli è arrivato, perché sostanzialmente se parliamo di un accertamento fiscale lui potrebbe anche decidere di contestare questo, l'attribuzione della nuova rendita impugnando l'atto, quindi bisogna vedere anche intanto... perché se addirittura lui si è messo in regola con le comunicazioni da subito, quindi lo può dimostrare, penso. Beh, lì poi si va a vedere davanti al giudice tributario, insomma, potrebbe anche aver ragione l'amministrazione in questo caso. Bisogna vedere cosa intende fare. Se invece intende, come dire, lasciar perdere e accettare la nuova rendita, è chiaro che il pagamento del saldo a decorrere dalla data in cui ha efficacia fiscale la nuova rendita che è indicata nell'atto, lui dovrà ricalcolare con la nuova rendita. È un po', fatte le debite proporzioni, la stessa cosa che si verifica quando in corso d'anno magari terminano i lavori di ristrutturazione su un immobile e a seguito di questi lavori di ristrutturazione il geometra lo riaccatasta, certo. Fa quella che si chiama l'aggiornamento catastale e cambia la rendita. Allora dal momento in cui la nuova rendita diventa effettiva è chiaro che io calcolo l'acconto o meglio il saldo in questo caso con la nuova rendita. In qualche modo è un caso simile a quello che abbiamo visto prima di quel nostro ascoltatore che non aveva avuto la residenza per tutto l'anno. Vuol dire che in sostanza per lo stesso immobile in un anno possono aversi situazioni diverse, cioè può essere per alcuni mesi affittato, per alcuni mesi seconda casa sfitta, per alcuni mesi in ristrutturazione e quindi magari addirittura inagibile e per alcuni mesi diventare invece un immobile con una rendita maggiorata perché sono stati fatti dei lavori e quindi avere una rendita più alta. Questo ovviamente complica i conti. Ovvio. Perché avremo 3 mesi in un modo e 9 mesi in un altro e così però via. Però purtroppo dobbiamo ricordarci di tutto. Tra l'altro a proposito delle case inagibili, tra poco abbiamo un caso che è quello di un ascoltatore di Treviso, però Stefano deve avere un minuto di pazienza perché prima vorrei affrontare invece quello di Giuseppe da Pisa che permette di richiamare l'attenzione su quella platea dei contribuenti, che ha deciso di versare l'IMU quest'anno rateizzando questo versamento appunto in 3 rate. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione. Poi notaio, questa è per lei naturalmente. Giuseppe, io ci dica. Sì. Ho pagato l'IMU per la prima casa, ho deciso di pagare in 3 rate, i calcoli sono esatti. Ho commesso un semplice errore nella rata di settembre sull'F24, ho omesso di indicare la detrazione. Pur avendone tenuto conto ai fini della somma da pagare. Quello che chiedo, posso, dovendo ancora pagare il saldo, è possibile se c'è una sanzione ove ci fosse una sanzione pagarla con l'F24 del 17 di dicembre oppure mi dicano loro, ecco, vi ringrazio. Certo Giuseppe, grazie molto. Allora, notaio Sironi, nella rata di acconto questa indicazione era stata fatta regolarmente, nella seconda Giuseppe si è dimenticato di farla, però l'ha tenuta in considerazione nel momento del pagamento, non è stata indicata formalmente sul modello, immagino l'F24. Può sanare la sua situazione Giuseppe senza incorrere in qualche pericolo di sanzione? Allora, confesso di non avere la risposta certa e immediata. Ma va bene, comunque ci capita molto spesso, notaio, poi ci studiamo. Guardo, io in linea di massima riterrei che non mi farei eccessive preoccupazioni. Vedo anche Cristiano giusto, che scuote la testa ed è tranquillo. Ci sono 3 versamenti in questo caso, nel primo ha segnato la detrazione corretta, nell'ultimo mi segna la detrazione corretta. Mi sembra proprio che anche alla luce dell'atteggiamento che l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di indicare di tenere in questa prima fase di applicazione dell'IMU, troverei veramente fuori luogo che arrivasse una sanzione per questo. In ogni caso poi lo approfondiamo, eventualmente gli diamo una risposta. Però diciamo che possiamo, diciamo, in linea di massima tranquillizzare Giuseppe, anche che cosa può essere successo che a settembre questo figlio si sia temporaneamente sposato, andato fuori casa, poi rientrato a riappartenere di nuovo al nucleo familiare, Cristiano. Sì, ma poi diciamo che si tratta veramente di un errore formale magari in questo anche caso. Minorenne, quindi. No, ma poi se non ha inciso nella quantificazione del tributo, nel senso che comunque l'imposta è stata calcolata e versata nel modo corretto, a quel punto siamo davvero nel campo di un errore solo formale che dovrebbe essere scusabile, anche come dicevi tu, alla luce dell'orientamento che ha avuto l'amministrazione. Con tutti quest'anno. I casi complicati e errati in maniera vistosa che l'amministrazione fiscale troverà, ci mancherebbe pure che si accanisca sul caso di Giuseppe. Comunque Giuseppe lo valutiamo ancora più dettagliatamente il suo caso, poi magari se lei ci vuole scrivere dandoci il suo indirizzo le scriviamo in privato. Stefano da Treviso che sta aspettando da un po'. Stefano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ci racconti. Allora, io ho ereditato l'anno scorso un immobile da mio padre in Svezia. L'immobile è disabitato da diversi anni in quanto mio padre era in casa di riposo e per cui non c'era. E ha il tetto che sta cedendo, che sta cadendo. E pensavo di poter usufruire della formula di casa inagibile in quanto non ci si può abitare perché c'è il pericolo. Vorrei vedere, certo. Il Comune di Venezia ha fatto una delibera a luglio, se non ricordo male, dove che per una casa venga resa inagibile solo quando non ha i servizi e non ha gli impianti idraulici, elettrici e quant'altro. Mi sembra un po' difficile che un immobile... Però se dormendo lei vede le stelle, in quel caso la casa viene considerata agibile. Esatto, volevo capire se c'era qualche possibilità di usufruire, anche perché il 50% dell'importo su un'aliquota al massimo... E chiaramente sarebbe parecchio. Quanto le costerebbe lo scherzetto, il versamento dell'aliquota piena del tributo? 1.400 euro. E quindi insomma lei dice pagarne 700 e 1.400, c'è una bella differenza, una bella tredicesima che entra a casa in via straordinaria. Stefano, grazie molte. Cristiano. Ma diciamo che qui siamo in un caso in cui l'inagibilità non dovrebbe essere in dubbio, perché ovviamente è un concetto che ogni comune può disciplinare dettando alcune caratteristiche specifiche, però è chiaro che se il tetto rischia di crollare la casa non può essere considerata agibile. Cosa deve fare agibile. L'ascoltatore? Chiamare il funzionario del comune? Deve rivolgersi in prima battuta all'ufficio del comune e poi magari farsi fare, diciamo contattare quantomeno un geometra o un tecnico. Una bella perizia. Una perizia o comunque anche soltanto una relazione da presentare al comune insieme alla dichiarazione, perché questo è uno di quei casi in cui dovrà essere fatta la dichiarazione IMO, anche se poi c'è ancora tempo, ma insomma può iniziare. Poi ricordiamoci che la deve fare. A prepararsi. E ottenere insomma la riduzione dell'imponibile, perché mi pare francamente difficile sostenere che siccome non è scollegato dalle utenze ma sta crollando il tetto allora la casa è agibile, perché di fatto l'agibilità è un concetto definito anche dalla legge nazionale e se il tetto crolla non c'è. Notaio Sieroni, altri suggerimenti da dare al nostro ascoltatore per poter arrivare all'appuntamento del 17 dicembre con una certa serenità? Che avere suggerimenti, il suggerimento può essere quello di andarsi a leggere la circolare. Ci fossero delle contemplate delle deroghe, delle eccezioni. Ecco, la circolare temo che non sia particolarmente favorevole al nostro amico, perché la circolare precisa appunto che i comuni hanno la possibilità di disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione. Quindi sembra introdurre il concetto secondo il quale se hai la possibilità di intervenire con un intervento appunto manutentivo, il comune può escludere l'applicabilità della riduzione al 50%. Allora, se il regolamento del Comune di Venezia, che io non conosco, dice ciò che ci ha detto il nostro ascoltatore, qualche timore che possa trovare soddisfazione la sua, che oggettivamente credo tutti riconosciamo giusta, volontà di usufruire di questa riduzione, qualche timore temo che possa esserci. E allora niente, che cosa dite? Che si sbrighi, Cristiano, che si sbrighi comunque ad andare a denunciare quantomeno questa situazione al comune, allora, che faccia un accertamento. La verifica va sicuramente fatta. Bisognerebbe anche fare un'altra verifica, magari con un professionista, appunto con un geometra. Forse non è il caso di questa situazione, però ci sono anche immobili che sono in condizioni veramente precarie, per cui si può chiedere al geometra di fare una variazione in catasto e di accatastarli come collabenti, che è la categoria, diciamo, dei fabbricati proprio diroccati. In questo caso la rendita viene azzerata, perché il fabbricato viene riconosciuto non più produttivo di alcuna utilità, e si va a pagare l'IMU. Poi qui la questione è un po' controversa, ma insomma sembra che sia l'orientamento prevalente: si va a pagare l'IMU sul terreno, cioè sull'area fabbricabile, che generalmente comporta un importo più basso, molto più basso di quello che sarebbe quello della casa in quanto tale. È una verifica che vale la pena di fare. Non so se può essere il caso, perché poi dipende dalle caratteristiche oggettive del fabbricato, però potrebbe essere un'alternativa, ecco. E intanto abbiamo arricchito il nostro vocabolario di una parola nuova, che è collabente, quindi casa diroccata, praticamente inagibile. Stando alle ultime modifiche, l'IMU si paga in 3 rate, una a gennaio, una a Viterbo e una a testa in giù. La prima rata è composta dal 60% del totale, ma va pagata online e in 6 terzi. La seconda rata invece è del 38% se sei nato in un mese pari e gratis se sei nato podalico. Nella terza rata si esibiranno i big, che saranno giudicati in parte da una giuria di qualità e in parte dal televoto. Il figlio del primo classificato finirà in sfida con il terzo classificato del torneo di biliardino del bar da Anduccio di Loreto a Frutino in provincia di Pescara, e il vincitore avrà l'onore di scegliere la ruota il cui primo estratto nella prossima estrazione, moltiplicata la taglia di reggiseno della tua prima fidanzatina delle medie, corrisponderà alla percentuale da pagare nella terza rata, che dovrà essere versata in monete da 5 o 3 centesimi. Grandissimo il trio Medusa. Naturalmente noi rubacchiamo anche per divertirci un po', così, delle situazioni divertenti che realizzano trasmissioni televisive concorrenti, però effettivamente la procedura per il calcolo per certi contribuenti del saldo IMU sfiora la procedura indicata dal trio, appunto, Medusa. Noi stamattina lo stiamo verificando sul campo, a giudicare appunto anche dai casi concreti dei nostri ascoltatori. Allora, c'era l'ascoltatrice, la Maria Rosa, che ci chiamava da, eccola qua giù, Bologna, perché il nostro monitor è talmente affollato che non vedo più neanche gli ascoltatori in attesa. Maria Rosa ci aveva scritto su Facebook e noi l'abbiamo prontamente ricontattata, perché a prescindere dal fatto che ha calcolato l'IMU che deve versare a dicembre, la questione che Maria Rosa ha è che, per la verità, questa rata è talmente pesante per lei che non ce la fa. Quindi Maria Rosa, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Niente, io sono proprietaria insieme a mio papà, io di 3/4 di una casa, di un appartamento, una casa, e praticamente cosa è successo? Che essendo, a me la fanno pagare come seconda casa, sì. Il comune mi ha raddoppiato la rata, cioè nel senso... Che comune è di Bologna proprio, Maria Rosa? No, io paese vicino. Abito a Sasso e la casa è a Pianoro, e il comune di Pianoro, essendo seconda casa, ci ha messo la liquidità più alta. Io non l'ho fatto io il calcolo, l'ho fatto tramite un patronato, perché certo, naturalmente è inaffrontabile. Allora, niente, praticamente io volevo sapere se, dal fatto che ci abita mio papà, io non ho reddito su questa, questo appartamento, se c'era la possibilità di alleggerire un po' questo impegno. Maria Rosa, allora guardi, abbiamo capito perfettamente e le assicuro che la situazione nella quale si trova lei si trovano in molti. Il tema è che non so se questo saldo si possa ulteriormente rateizzare per alleggerire un po' questo impegno, Cristiano. No, purtroppo no. Di fatto chi non paga si espone al rischio non solo di accertamenti, che è ovvio da parte del comune, ma si espone alla necessità di pagare poi in un secondo tempo, ma con sanzioni e interessi, sanzioni che sono anche ridotte, gli interessi sono poi gli interessi legali, quindi non è molto, però di fatto non pagare entro il 17 dicembre vuol dire dover pagare comunque qualcosa, ecco, in più se ci regolarizziamo da soli, o molto di più se ci viene a pescare, certo, poi il comune. Allora, siccome ce lo stanno chiedendo in molti, che lo stesso, come ribadisco, pongono il problema di Maria Rosa, non ce la fanno il 17, magari la tredicesima arriva più tardi, quindi non ce la fanno a saldare effettivamente il saldo proprio per questo motivo, perché magari chi percepisce e aspetta questa boccata d'ossigeno della tredicesima arriva il 20, il 22, certo, cosa può fare? Diciamo, qual è il ritardo meno doloroso? Allora, c'è un istituto che si chiama ravvedimento operoso. Adesso diciamo quali sono le coordinate, poi il problema è che il calcolo è ovviamente complicato. E quindi conviene farsi assistere magari da un patronato o da un CAF, però diciamo che entro i primi 14 giorni di ritardo la sanzione è soltanto dello 0,2% al giorno, quindi andiamo su una sanzione abbastanza bassa. Poi ci sono gli interessi legali che sono il 2,5% all'anno, però vanno rapportati al numero di giorni, quindi è chiaro che su 10 giorni parliamo di una frazione, di uno 0, quindi in qualche modo possiamo dire che entro le 2 settimane di ritardo, se il contribuente si attiva da solo, senza che appunto vengano avviate delle attività istruttorie o delle attività ispettive da parte del comune, e nelle prime 2 settimane di ritardo questo non succede, si può pagare con una sanzione tutto sommato molto bassa. Chiaro che il problema diventa poi a quel punto calcolarla correttamente la sanzione, ecco, perché andiamo veramente su conti con molte virgole, quindi è una cosa che difficilmente si riesce a fare da soli. Quindi niente, poi Maria Rosa, l'unica cosa che può fare è sentire se il comune dove abita magari eroga qualche sostegno alle famiglie che denunciano situazioni di difficoltà di questo tipo, ma qui già siamo in una situazione ancora più complessa. 4 domande, 1 minuto di tempo prima di chiudere la trasmissione, non ce la faremo mai. Rapidamente, Claudio da Novara, buongiorno Claudio, telegrafico. Buongiorno, senta, io volevo chiedere, siccome ho un appartamento in abbinato ho un garage che però ha 2 posti auto, mi tocca pagare e spezzare la rata del garage o va bene così? Come viene considerata questa pertinenza, notaio Sironi? Io direi che, siccome dalla visura catastale non risulta che è doppio, risulterà semplicemente una superficie ampia, probabilmente è un'unità immobiliare ad uso box. Quindi, fine delle trasmissioni. Benissimo, sì, esatto, ha utilizzato il termine giusto perché fra 40 secondi devo chiudere. Però Gian Pietro da Roma riesco a sentirlo, se è telegrafico anche lui. Gian Pietro, buongiorno. Buongiorno, siccome entro il 10 dicembre lo Stato può cambiare le aliquote, questo può incidere sulla prima casa o soltanto sulle seconde? Gian Pietro, grazie. Cristiano? Potrebbe incidere su tutto, ma possiamo dire con una ragionevole certezza che lo Stato non cambierà le aliquote perché l'aveva anticipato il sottosegretario Ceriani già a luglio. Benissimo. Che fate martedì prossimo, Cristiano e notaio Sironi? Facciamo un ultimo round finale? Mi sembra una domanda interessata. Notaio, lei ce la fa? Facciamo quest'ultimo round finale. Se ha proprio 10 secondi, sì? Solo a Maria Rosa, volevo aggiungere di verificare, perché spesso sfugge il diritto d'abitazione. Sì. Se questa casa proviene in parte almeno dall'eredità della mamma di Maria Rosa, probabilmente al papà compete per legge il diritto d'abitazione e quindi il debitore, ecco, dell'IMU è lui e non Maria Rosa. Benissimo, le scriviamo a Maria Rosa su Facebook. A domani, grazie.